Vivendo, non posso negare che le idee adottate dalla gioventù sull'ardore esclusivo dell'amore, sul possesso assoluto che rivendica, sui diritti eterni che afferma siano false o almeno fatali. Tutte le teorie dovrebbero essere ammesse e concederei quella della fedeltà coniugale alle anime eccezionali. La maggioranza ha altre esigenze, altri poteri. Per loro la libertà reciproca, la tolleranza reciproca, l'abiura di ogni egoismo geloso. A quelli, ardore mistico, fuochi a lungo soffocati nel silenzio, una lunga e voluttuosa riserva. Agli altri, la calma degli angeli, la castità fraterna, la verginità eterna. Le anime sono tutte uguali? Tutti gli uomini hanno le stesse facoltà? Non sono forse nati alcuni per l'austerità della fede religiosa, altri per il languore della voluttà, altri per le fatiche e le lotte della passione, altri per le vaghe fantasticherie della poesia? Oh, niente più arbitrario del significato del vero amore. Tutti gli amori sono veri, siano essi ardenti o pacifici, sensuali o ascetici, duraturi o fugaci, che portino l'uomo al suicidio o al piacere. Gli amori della testa portano ad azioni altrettanto grandi quanto gli amori del cuore, hanno la stessa violenza, lo stesso impero, se non la stessa durata. L'amore dei sensi può essere nobilitato e santificato dalla lotta e dal sacrificio. Quante vergini velate hanno inconsapevolmente obbedito all'impulso della natura, baciando i piedi di Cristo, versando calde lacrime sulle mani di marmo del loro sposo celeste. Credimi, Stenio. Questa divinizzazione dell'egoismo che possiede e custodisce questa legge del matrimonio morale nell'amore è tanto sciocca, tanto impotente a frenare le volontà, tanto irrisoria davanti a Dio quanto quella del matrimonio sociale e ora agli occhi degli uomini. Hai confuso due cose ben distinte, l'amore dei sensi e l'amore dell'anima. Quest'ultima posso ispirarla e condividerla, ma l'altra non è fatta per me. O meglio, io non sono fatta per sentirla, perché, lungi dal disprezzarla, ho solo una sdegnosa compassione per gli organismi impoveriti, per le facoltà distorte che pullulano in questi tempi e di cui sono un triste esempio. Ma così come sono, per quanto accetti infelicemente il mio destino, devo sottomettermi e trarre il meglio dalla mia condizione di infermità, devo smettere di lottare contro la mia impotenza e ridurre le mie ambizioni in modo che corrispondano ai miei punti di forza. È vero che sto soffrendo, che una terribile disperazione sarebbe la mia parte inevitabile se non mi ritirassi e non cedessi giorno per giorno alla necessità. L'isolamento del cuore mi insegue nelle intimità più pure. Non potrò mai raggiungere quell'effusione completa, quell'abbraccio di anime, quella felicità che un tempo sognavo e di cui ho colto solo l'ombra. Ma sento che posso salvarmi solo con la rassegnazione, che nuovi errori, nuovi tentativi aggraverebbero la mia malattia e la renderebbero incurabile. Possedere le facoltà dell'amore nella loro doppia potenza, essere in grado di sentire vividamente le gioie dell'anima e quelle dei sensi, sai, Stenio, che questo non è dato a molti di noi. Se sei dotato di questa ricchezza nel tuo organismo, non c'è motivo di indignarti se non incontri un tuo pari in questo mondo. Dichiaro umilmente di non esserlo. I mali della mia triste esistenza sono lì per liberarmi dal rimprovero, dell'ironia e del disprezzo. Forse non dovrei lamentarmi della mia condivisione. Molti mi hanno detto che Dio mi ha trattata magnificamente, dandomi l'intelligenza, ma il pensiero l'ho sperimentato spesso. È un potere pericoloso per chi lo usa. Un'arma che ferisce la mano, che la solleva, un faro luminoso ma ingannevole che ci porta di abisso in abisso. Ho spesso maledetto questa fonte di amarezza, ho spesso chiesto a Dio di rendermi come gli animali del bosco, ma nella follia della mia sofferenza ho espresso un desiderio che non avrei voluto veramente vedere realizzato. Avrei acconsentito a indossare le vesti delle pantere e a sprofondare nelle solitudini sconosciute all'uomo, a possedere le ali dei gabbiani e ad attraversare i mari trasportata dalle tempeste, ma a condizione che la mente umana vivesse in me per contemplare le bellezze del deserto, lo splendore delle nuvole e l'immensità delle onde. Non capivo i vantaggi del vigore muscolare, dell'agilità fisica, dello sviluppo straordinario e magnifico di certi sensi come la vista degli uccelli, come la voluttà delle tigri, senza l'esercizio del pensiero per apprezzarne il valore, senza le forze dell'anima per ringraziarne la natura divina. Anche oggi, sebbene stanca dell'abuso di questi poteri e tormentata da preoccupazioni senza scopo, non è in buona fede che aspiro al possesso isolato delle facoltà della materia. Forse rifiuterei la vita spensierata e folle di mia sorella, perché anche il pensiero ha le sue ebbrezze, le sue estasi, le sue voluttà celestiali, di cui un'ora vale un'intera giovinezza, un'intera vita. E se la tua minaccia si avverasse, Stenio? Se il fuoco del cielo si spegnesse in me e mi abbandonassi al disordine dei sensi, se, trasformata dall'ira di Dio, fino a perdere l'impero della mia volontà, mi gettassi palpitante e pallida di vergogna tra le braccia di quegli uomini che il mio cuore non amerebbe, ma che i miei sensi bramerebbero, oh, allora se così fosse. Stai certo che non dovrai vergognarti a lungo di aver amato Lelia. Quando la forza morale ci sfugge, quando il bisogno brutale ci domina, quando il rispetto di sé cessa di parlare in noi e siamo vicini a rotolare nell'abisso dell'infamia, è perché Dio ci ha abbandonato. E allora anche noi possiamo abbandonare Dio. Siamo liberate dalla legge dell'amore e della gratitudine che rende ciascuna di noi parte dell'ordine eterno e infinito. Non siamo più parte della creazione. Disturbiamo l'armonia universale perché una persona muta non appartiene più a nessuna specie e deve essere tagliata fuori o almeno separata. Se la società è costretta a sopportarlo o a sopportarla, lo insulta, la insulta, la schiaccia sotto il suo disprezzo, e il disprezzo degli uomini è orribile quando è meritato, quando dietro la sua implacabile giustizia non c'è una ritirata aperta per rivendicare la giustizia pacifica, l'indulgenza paterna di Dio. Allora, Stenio, non ci sono alternative. Se le macerazioni del misticismo non riescono a domarci, se i consigli della saggezza non riescono più a contenere le passioni grossolane dentro di noi, dobbiamo morire. C'è un rifugio contro gli uomini, è il suicidio. C'è un rifugio contro Dio, è il nulla. Quindi non cercare di cambiarmi. Non è il mio potere, il tuo fallirebbe miseramente nel tentativo. Se sono l'unica donna che puoi amare, resta, figlio mio, resta con me. Io acconsento, sarò tua amica. Non ti mancherò se non mi costringerai ad andarmene per paura di farti del male. Vedi, Stenio, il tuo destino è nelle tue mani. Accontentati della mia tenerezza purificata, dei miei abbracci platonici. Ho cercato di amarti come un amante, come una donna, ma che cosa? Il ruolo della donna si limita agli slanci d'amore? Sono giusti gli uomini quando accusano colei che risponde male ai loro trasporti di derogare agli attributi del suo sesso? Non contano nulla l'intelligente sollecitudine delle sorelle, la sublime devozione delle madri. Oh, se avessi avuto un fratello giovane, lo avrei guidato nella vita, avrei cercato di risparmiargli le pene, di preservarlo dai pericoli. Se avessi avuto dei figli, li avrei nutriti con il mio seno, li avrei portati in braccio nella mia anima, mi sarei sottoposta per loro senza sforzo a tutti i mali della vita. Sento che sarei stata una madre coraggiosa, appassionata, instancabile. Sì, dunque, mio fratello e mio figlio, e lascia che il pensiero di qualsiasi tipo di imene sembri incestuoso e fantasioso. Scaccialo, come si scacciano quei sogni mostruosi che ci turbano di notte e che allontaniamo senza sforzo o rimpianto al risveglio. Se la tua gioventù è avida di piaceri consentiti, lascia che ti illumini sui pericoli da evitare, lascia che Tremor ti guidi lungo questi sentieri difficili dove si può camminare quando si ha un'anima forte e un cuore nobile. Siamo nate per essere il vostro sostegno e la vostra guida, perché siamo nate prima di voi. La vostra vita inizia e la nostra finisce. Non possiamo quindi condividere le tue passioni, ma possiamo indirizzarle. Vivi per conto tuo, ma vieni da noi quando soffri affinché possiamo curare le ferite che ti hanno inflitto le catene della vita. In questo modo tutti e tre possiamo essere felici. Accetta questo contratto di amore e castità, metti la tua mano nella nostra con fiducia. Appoggiati tranquillamente alle nostre spalle, pronte a sostenerti. Ma non illuderti ancora, non sperare di ringiovanirmi fino a privarmi del discernimento e della ragione. Non spezzare il legame che ti rende forte, non rovesciare il sostegno che invochi. Chiama, se vuoi, l'affetto che abbiamo l'uno per l'altro con il nome di amore, ma che sia l'amore conosciuto nella dimora degli angeli, dove solo le anime ardono del fuoco dei santi desideri. 5. Ebbene, che tu sia maledetta perché io sono maledetto, e sei tu il cui alito freddo ha fatto appassire la mia giovinezza nel suo fiore. Hai ragione, ti sento molto bene, signora. Confessi che ho bisogno di te, ma dichiari di non aver bisogno di me. Di che cosa posso lamentarmi? Non so che non c'è risposta? Preferisci rimanere nella calma dove dici di essere piuttosto che scendere a condividere il mio ardore, i miei tormenti, le mie tempeste? Tu. Hai molta saggezza e logica nella verità e lungi dal discutere con te io resto in silenzio e ti ammiro. Ma posso odiarti, Lelia. È un diritto che mi hai dato e che intendo usare. Mi hai fatto abbastanza male da dedicarti un'eterna e profonda inimicizia perché, senza avermi fatto un vero torto, hai trovato il modo di nuocermi e di privarmi del diritto di lamentarmene. La tua freddezza ti ha posto in una posizione inattaccabile nei miei confronti. Mentre la mia giovinezza e la mia esaltazione mi hanno lasciato indifeso nei tuoi confronti, non ti sei degnata di avere pietà di me? È semplice. Perché dovrebbe essere altrimenti? Quale simpatia può esistere tra noi? Con quale lavoro, con quali grandi azioni, con quale superiorità ti avevo guadagnato? Non mi dovevi nulla e mi hai concesso quella facile compassione che fa girare la testa quando si passa accanto a un uomo sanguinante e ferito. Non era già molto. Non era almeno sufficiente a dimostrare la tua sensibilità? Oh sì, sei una buona sorella, una madre tenera, Lelia. Mi getti tra le braccia delle cortigiane con ammirevole disinteresse. Infrangi la mia speranza, distruggi la mia illusione con una severità davvero maestosa. Mi annunci che non c'è felicità pura né piaceri casti sulla terra e per dimostrarmelo mi allontani dal tuo seno, che sembrava accogliermi e promettermi le gioie del cielo, per mandarmi a dormire su un seno ancora caldo dei baci di un'intera città. Dio! È stato saggio, Lelia, a non darti un figlio. Ma è stato ingiusto con me nel darmi una madre come te. Ti ringrazio, Lelia. Ma la lezione è abbastanza forte, non ne ho bisogno di un'altra per raggiungere la saggezza. Qui sono illuminato e qui sono disilluso da tutto. Sono vecchio e ho esperienza. In cielo ci sono tutte le gioie e tutti gli amori, in bocca al lupo. Ma intanto accettiamo la vita, con tutte le sue necessità. La giovinezza inquieta e febbrile, il desiderio ardente e malato, il bisogno brutale, il vizio sfacciato, pacifico e filosofico. Facciamo due parti del nostro essere, una per la religione, per l'amicizia, per la poesia, per la saggezza, e l'altra per la dissolutezza e l'impurità. Lasciamo il tempio, andiamo a dimenticare Dio sul letto di Messalina, profumiamo la nostra fronte e sguazziamo nel fango. Aspiriamo nello stesso giorno all'immacolatezza degli angeli e rassegniamoci alla rozzezza degli animali. Ma io, signora, lo capisco meglio di te, io vado oltre. Faccio mie tutte le conseguenze del tuo precetto. Incapace di dividere così la mia vita tra cielo e inferno, troppo mediocre, troppo incompleto per passare dalla preghiera all'orgia, dalla luce alle tenebre, rinuncio alle gioie pure, alle estasi divine, mi abbandono al capriccio dei miei sensi, all'ardore del mio sangue che brucia. Viva la zinzolina! E quelle come lei, viva i piaceri facili, le ebbrezze che non hanno bisogno di essere vinte né con lo studio, né con la meditazione, né con la preghiera. In verità, sì, sarebbe una follia disprezzare le facoltà della materia. Non ho forse assaporato tra le braccia di tua sorella una felicità reale come se fossi stato tra le tue braccia? Ho riconosciuto il mio errore, l'ho sospettato anche solo per un momento, per il cielo, no! Nulla mi ha trattenuto dall'orlo della caduta. Nessun presentimento segreto mi avvertì del perfido scambio che stavate facendo, ridendo davanti ai miei occhi accecati. Le grossolane emanazioni di una gioia folle mi inebriarono quanto i dolci profumi della mia amante. Ho sentito l'odore di una donna e nel mio ardore brutale non ho distinto Pulcherie da Lelia. Ero smarrito, ubriaco, credevo di premere contro il mio petto il sogno delle mie notti ardenti e lungi dall'essere raggelato dal contatto di una sconosciuta, bevevo l'amore, benedicevo il cielo, accettavo la sostituzione più sprezzante con trasporto e con singhiozzi. Possedevo Lelia nella mia anima e la mia bocca divorava Pulcherie senza diffidenza, senza disgusto, senza sospetto. Brava signora, ci sei riuscita, mi hai convinto. Il piacere dei sensi può esistere separatamente da tutti i piaceri del cuore, da tutte le soddisfazioni dello spirito. Per te l'anima può vivere senza l'aiuto dei sensi. Questo perché sei una natura eterea e sublime, ma io sono un vile mortale, un miserabile bruto. Non posso stare vicino a una donna amata, toccare la sua mano, respirare il suo respiro, ricevere i suoi baci sulla fronte senza che il mio petto si gonfi, senza che la mia vista si offuschi, senza che la mia mente si smarrisca e soccomba. Devo quindi fuggire da questi pericoli, devo fuggire da queste sofferenze, devo anche proteggermi dal disprezzo di chi amo con un amore indegno e rivoltante. Addio, signora. Fuggo da te per sempre. Non arrossirai più di spirare l'ardore con cui mi sono consumato ai tuoi piedi. Ma poiché la mia anima non è depravata, poiché non posso sopportare un cuore pieno di santo amore tra le braccia delle infami debosciate che mi dai come amanti, poiché non posso unire il ricordo della voluttà celeste al sentimento della voluttà terrena, voglio spegnere la mia immaginazione, abbiurare la mia anima, chiudere il mio petto a nobili desideri. Voglio scendere al livello della vita che hai fatto per me e vivere di realtà come finora ho vissuto di finzioni. Sono un uomo ora, non è vero? Ho la conoscenza del bene e del male, posso camminare da solo, non ho più nulla da imparare. Rimani al tuo posto. Io il mio l'ho perso. Ahimè, ahimè, è proprio vero. Ero uno sciocco puerile, un miserabile pazzo quando credevo alle promesse del cielo, quando immaginavo che l'uomo fosse un buon organismo come le erbe del campo, che la sua esistenza potesse essere raddoppiata, completata, fusa con un'altra esistenza e assorbita nell'abbraccio di un sacro trasporto. Ci ho creduto. Sapevo che questi misteri si compivano al calore del sole, sotto l'occhio di Dio, nel calice dei fiori, e mi sono detto: l'amore dell'uomo puro per la donna pura è dolce, legittimo, ardente come questi. Non ricordavo più le leggi, le usanze e i costumi che distorcono l'uso delle facoltà umane e distruggono l'ordine dell'universo. Indifferente alle ambizioni che tormentano gli uomini, mi rifugiai nell'amore senza pensare che anche la società era passata di là e che alle anime ardenti non restava altra risorsa che consumarsi e spegnersi, disprezzandosi in mezzo a gioie fittizie e piaceri aridi. Ma di chi è la colpa? Non è forse soprattutto di Dio? Io non avevo mai accusato Dio prima. E sei stata tu, Lelia, a insegnarmi, a spaventarmi per i suoi giudizi, a rimproverarlo per i suoi rigori. Ora questa superstizione fiduciosa che mi ha abbagliato si sta dissipando. La nuvola d'oro che mi nascondeva la divinità è svanita. Scendendo nel profondo di me stesso, ho conosciuto la mia debolezza, ho arrossito della mia stupidità, ho pianto di rabbia nel vedere il potere della materia e l'impotenza di quest'anima di cui ero così orgoglioso, il cui regno credevo così sicuro. Ora so chi sono e chiedo al mio maestro perché mi ha fatto così, perché questa intelligenza avida, perché questa immaginazione orgogliosa e delicata è in balia dei desideri più crudi. Perché i sensi possono imporre il silenzio al pensiero, soffocare l'istinto del cuore e il discernimento della mente. Oh, vergogna, vergogna e dolore! Pensavo che i baci di questa donna mi avrebbero trovato freddo come il marmo. Pensavo che il mio cuore si sarebbe alzato in segno di disgusto mentre mi avvicinavo a lei ed ero felice con lei e la mia anima si espandeva mentre possedevo questo corpo senza anima. Sono io che sono spregevole ed è Dio che odio. E anche tu, il faro e la stella, che mi hai fatto conoscere l'orrore di questi abissi, non per salvarmi da essi, ma per immergermi in essi. Tu, Lelia, che avresti potuto chiudere i miei occhi, risparmiarmi queste orribili verità, darmi un piacere di cui non mi sarei vergognato, una felicità che non avrei maledetto e odiato. Sì, ti odio. Ti odio come mia nemica, come mio flagello, come strumento della mia rovina. Potevi almeno prolungare il mio errore e fermarmi per qualche altro giorno alle porte del dolore eterno e non hai voluto. E mi hai spinto nel vizio, senza degnarmi di avvertirmi, senza scrivere all'ingresso. Lascia le speranze alle porte di questo inferno, tu che vuoi varcarne la soglia e affrontarne i terrori. Ho visto tutto, ho affrontato tutto. Sono informato, saggio e infelice quanto te. Non ho più bisogno di una guida. So quali beni posso utilizzare, a quali ambizioni devo rinunciare. So quali risorse possono respingere la noia che divora la tua vita e li userò se necessario. Addio allora. Mi hai insegnato bene, mi hai illuminato bene. Ti devo la scienza. Maledetta Lelia. Quinta parte 1. Il vino. Una mattina fu visto uno straniero fermarsi alle porte della città. Camminava per le valli erbose e la sua scarpa era ancora bagnata di rugiada. Camminava da solo, senza armi, se non un bastone bianco, e dal suo costume austero, dalla sua fronte seria e dalla sua andatura tranquilla, si sarebbe potuto venerare come un apostolo dei tempi antichi. Sebbene non avesse né il flap né la tonsura, il primo borghese a cui parlò lo prese per un sacerdote a causa della veste nera e dei capelli lunghi, ma il degno uomo indietreggiò, sorpreso, quando lo straniero, con tono calmo e modesto, chiese in quale parte della città si trovasse il palazzo della signora Zinzolina. «Vostra signoria apostolica vuole prendersi gioco del suo servo più devoto?» rispose il cittadino reprimendo un'esclamazione di gioia maliziosa. «La vostra eccellenza canonica ha certamente sbagliato nome, la Zinzolina, la signora Cort...» Il tono con cui lo sconosciuto ripeté la sua richiesta era così assoluto, così fermo, così gelido, che tutti i burloni, già raggruppati intorno a lui, si guardarono l'un l'altro come per chiedersi chi fosse quell'uomo la cui voce e i cui gesti incutevano timore. Fu data una guida allo straniero che, senza riposare, si recò subito alla casa della cortigiana. Vedendo la sua scarpa spenta, il suo bastone e il suo grande cappello da viaggio, i lacchè gli voltarono le spalle e non si degnarono di ascoltare le sue domande. Poi mandò via la sua guida ed entrò nel palazzo alzando impassibile il bastone contro tutti quelli che cercavano di fermarlo. Un paggio entrò nella stanza dove Zinzolina trattava i suoi ospiti in modo spaventato. «Un abbatone, un abbataccio!» disse. E era appena entrato a forza in casa colpendo le persone della signora, le porcellane giapponesi, le statue di alabastro, le pietre del mosaico, facendo un terribile disordine e pronunciando terribili maledizioni. Immediatamente tutti gli ospiti si alzarono, tranne uno che dormiva, e vollero correre dall'abate per scacciarlo, ma la Zinzolina, invece di condividere la loro indignazione, si accasciò sulla sedia e scoppiò a ridere. Poi si alzò a sua volta, ma solo per imporre loro il silenzio e ordinare di tornare a sedersi. «Mi piacciono i preti intolleranti e arrabbiati, sono i più dannati! Che il signor abate entri, apra la doppia porta e porti del vino di Cipro!» Il paggio obbedì e quando la porta fu aperta si vide la figura solenne e maestosa di Trenmore, che entrava dal fondo della galleria, ma l'unico ospite che avrebbe potuto riconoscerlo e presentarlo era così profondamente addormentato che quelle esplosioni di sorpresa, rabbia e allegria non lo avevano nemmeno fatto trasalire. Vedendo più da vicino il finto ecclesiastico, gli allegri compagni della Zinzolina riconobbero che la sua veste straniera non era quella di un sacerdote, ma la cortigiana, persistendo nel suo errore, gli disse, andandogli incontro e facendosi bella e dolce come una Madonna: «Vieni, signor vescovo o arcivescovo o cardinale o papa, sii il benvenuto e dammi un bacio». Trenmore baciò la cortigiana, ma con un'aria così indifferente e con labbra così fredde che lei fece 3 passi indietro, gridando per metà con rabbia e per metà con orrore: «Per i capelli d'oro della Vergine! È il bacio di uno spettro!» Ma presto riprese la sfrontatezza e, vedendo che Trenmore lanciava uno sguardo cupo e ansioso agli ospiti, lo attirò a sedere accanto a sé. «Vieni, mio bellissimo abate», disse, presentandogli la sua coppa d'argento cesellata da benvenuto e coronata di rose alla maniera delle voluttuose orge greche. «Scalda le tue labbra intorpidite con questo lacrima Christi». E si firmava con aria ipocrita mentre pronunciava il nome del Redentore. «Dimmi cosa ti porta da noi, o meglio, non dirmelo, lasciami indovinare. Vuoi che ti regaliamo un abito di seta e ti profumiamo i capelli? Sei l'abate più bello che abbia mai visto, ma perché la tua misericordia si acciglia?» senza rispondermi. «Vi chiedo scusa, madame», rispose Trenmore, «se non rispondo bene alla vostra ospitalità, anche se sono venuto qui a piedi, come un ambulante. Mi ricevete come un principe. Amo le nature logiche e complete come la vostra e vi stimo tanto, una cortigiana innamorata di tutti gli uomini quanto una badessa innamorata di tutti i santi, ma non ho tempo per voi, la mia visita ha un altro scopo, Pulcherie». «Pulcherie?» disse la Zinzolina rabbrividendo. «Chi sei tu per conoscere il nome che mi ha dato mia madre? Da quale paese provieni?» «Vengo dal paese dove si trova ora Lelia», rispose Trenmore.